rendo difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Madame et Monsieur, vous présente l'artiste Gigi D'Agostino, Le Nouvelle Martel. Aspetta, mi rivio un attimo. Mangia un bel pasticcino che c'è Gigi D'Agostino. Caro Gigi, tempo fa ho comprato il tuo CD. Potresti in cambio farmi un favore? Dipende. Potresti dire a quella ragazza col costume bianco di Ginosa Marina, alla quale in spiaggia avevo dato il biglietto con il mio numero, che almeno un SMS potrebbe mandarmelo. Yuri da Milano. E Yuri, se non te lo manda è perché non è ispirata a mandartelo. E non è che te lo può mandare per farti un favore. Cioè, se uno scrive a uno o a una un messaggio e lo scrive perché istintivamente è portato, affascinato, prova proprio il desiderio di scrivere, di comunicare, di sfiorare l'altra persona. Viceversa, a te il palo e la traversa, capisci? Fino a quando ancora non ti conoscevo, non sapevo il vero significato della parola cammino. Poi con te e con la tua musica ho capito che camminare ne vale la pena. Gae da Calitri. Dedico cammino ai miei amici Rob, Raffa, Nando e Roy. Ti portiamo nel cuore e anch'io vi porto nel cuore. Solo pensiero di toccarla come piace a lei. Un santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino. Ta-ra-ta-ra-ta. E cammino, cammino e corro come un bambino e sparo. Fino all'ultimo tiro, vale. vorrei dedicare cammino alla mia ragazza Sara da Cervia, perché insieme a lei sto percorrendo un cammino meraviglioso che spero non finisca mai. Andrea. Libera la mente, dimentica perché, apri le tue ali e vola via con me. Scemo. All'ora sesta c'è la musica che pesta, muovi un po' la testa. M2O. Caro Gigi, sono Susi 66. Purtroppo M2O non si sente nemmeno a Peschiera, oltre che a Verona, e tutto questo è un dramma. Come faremo io e mio marito dal mese prossimo? Mo si attaccamo tutti al cazzo, si attacchiamo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci sono anch'io, eh? Ah, e cazzemma. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dai. Letteralmente corretto. Musicalmente perfetto. Oh, vieni un po' qua, te. Dalla Valle di Susa. Potresti mettere muovendo? Sì, tu stai fermo lì che io mi muovo da qui. Siamo Franco e Seba, caro Gigi, sempre viva la... Ah. Sono d'accordissimo e mi unisco con le mani al cielo a voi, ma aggiungerei anche un viva il... Il Cesare, quel che è di quel Cesare. Diamo sempre tutto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non siamo qui a rigare i conchiglioni. Sabato 2 2 settembre a Schio, Vicenza, discoteca Seychelles. Ce la puoi fare? C'è l'evento lento, violento. C'è bisogno d'aiuto, basta chiedere. Beh, visto che ti sei offerto, avremmo bisogno. Era così solo per dire, sai? Oggi Super Demo fa 18 anni. Fagli un regalo, manda Memories. Dalla ballotta, Zanzi. O dalla ballotta, Zanzi. Questi qua. Ascoltatore, mi devasta così tanto. Non immagino nemmeno cosa riesca a fare a te questa meraviglia. Luca Pacman. N2O. Che dire? In quei momenti struggenti, tanti cambiamenti, tutto ti appare chiaro e tu ne eri ignaro. In un istante è tutto meno pesante, tutto può cambiare, basta lasciarsi andare. Musica. Adoro il fatto che tu abbia freddo quando fuori ci sono 25 gradi. Adoro il fatto che ci metti un'ora e mezzo per ordinare un paniero. Adoro la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato una giornata con te posso ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E adoro il fatto che tu sia l'ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c'entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. Volevo dedicare The Power of Love al mio amore Toto. Dai, Toto di questo qui. Perché è con questa canzone che abbiamo iniziato il nostro cammino d'amore insieme. Lo amo, Selena. Non ci sono le virgole, quindi magari sbaglio anche a leggere le vostre dediche, però è difficile. Semplicemente al mio fratellone Luigi, Chris, dalla provincia di Cosenza. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Gigi D'Agostino, non giochiamo, non giochiamo. Gigi D'Agostino, non giochiamo, non giochiamo. Mi farebbe piacere ascoltare Again per dedicarla ad Ambra, perché non la voglio vedere mai più, Simone. Sono Chiara da Catania. Vorrei dedicare Again al mio Paolino, perché sta diventando troppo importante per me. Paolo e Chiara, Again. Volevamo dedicare a Beppe e alla Stella che tra poco sono in tre. Again, un saluto da Toto, Dai e Sele a Tempo di Musica. Sì, questa è una canzone molto versatile. La si può percepire come un saluto per sempre. Tipo, non voglio vederti mai più. Oppure è un again, nel senso, è ancora, cioè, vabbè, ognuno, capito? Il nostro amore è come la pioggerella d'autunno, che cade piano ma fa straripare i fiumi. Da 30 anni, forse l'amore eterno esiste. E la canzone Again farà per sempre parte della nostra colonna sonora. Michela 60 e Andrea 54. Remember your last smile. I remember your first line. It's time to stop this useless relation. There's no reason to go on. I hate to waste my precious time. There is no way to change my mind. You let me down with careless emotions. Your behavior has to stop. Sabato 2 settembre a Schio, Vicenza, discoteca Seychelles, menù del giorno, piatto unico, Gigi D'Agostino. In buona sostanza. In buona sostanza, ma hai rotto le palle. Non c'è mai nulla di sbagliato in ciò che fai, mai. A lavorare tutti, forza. Voglio che dedichi una canzone d'amore a Claudia da Milano. Claudia da Milano. E io sono Mino da Gallipoli. Mino da Gallipoli. E io invece sono Gigi e da qua. Volevo dedicare, per me amore vuol dire aver incontrato te, ad Anastasia, la mia vita. Paolo Ligorio da Paderno Dugnano. Sulle mani. Vorrei dedicare la canzone che fa Amore vuol dire aver incontrato te alla mia piccola Elena dal suo orsetto. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto. quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo, da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi, forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Di aver incontrato te. Voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Sono Lorenzo da Belluno. Un saluto a voi e un in bocca al lupo alla mia convivente Valentina. Ti voglio un mondo di bene. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Sono Dario da Bassano del Grappa. Mi metti una musica da favola e sono qui apposta. Così la posso dedicare a Cristina, che è la principessa del mio cuore. Vorrei complimentarmi con chi ha avuto il coraggio di cambiare per non soffrire più, distinguendo i veri amici e evitare quelli stronzi. Vorrei anche lodare tutti quelli che sognano e sperano e credono in un futuro migliore, nonostante tutte le guerre che ci sono. Gigi, dedicami la tua canzone preferita, Roxy di Trana. La mia canzone preferita è sempre una diversa, quindi oggi suonerò questa, ma per me ogni giorno è una storia nuova. We'll be right back. sono Giuseppe. Vorrei dire ad Annalisa di Messina che la amo. Ero a Lloret de Mar. Lloret de Mar. Lloret de Mar. Olè. Il 16 agosto, live memorabile, momenti contenti. Con l'Anzafame Group, Milian, Diego, Franco, Memole, Diga e Ricky. E mi ricordo che vi ho visto. Metti Please Don't Cry, che spacca. Andre da Lavagna. Vorrei tanto dedicare la tua Please Don't Cry al mio amore Michele. Francesca da Isernia. Mi faresti sentire la canzone del reparto Pelle d'Oca? Eh sì, è la più bella. Ho 27 anni, ma la tua musica mi fa sentire come una di 15. Grazie. Raquel, Rachel 79 o Raquel 79. Vorrei dedicare reparto Pelle d'Oca a mia sorella Melania, che è pazza di te. Danny o Danny da Termini Imerese. Mi piace questa cosa che non si sanno i titoli o gli artisti dei vari brani, e quindi quando fate le dediche li chiamate un po' come li percepite voi e gli date dei nomi. Mi piace, bello, è forte questa cosa. Vabbè, andiamo avanti, sennò poi mi perdo come al solito. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Le rime c'erano, andava bene. Ti amo, sono perduto, è tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino, reparto Pelle d'Oca. Potresti mettere una canzone... Ah no, è una domanda, va letta diversamente questa qua. Cioè, potresti mettere... Così, meno. Potresti mettere una canzone a tuo piacimento da dedicare a Giuseppe Felicetto da Leonforte, in provincia di Enna. Arrivate alla prima rotonda. No, vabbè. Per dirgli che ogni giorno che passa diventa sempre più bello. E quando lo vedo, mi fa impazzire sempre di più. Sabato 2 settembre 2006, Seychelles, a Schio, porco zio. A cosa? Io sono cazzo, mi sono percato, cazzo, veramente. Caro Gigi, mi ha appena lasciato la ragazza. Mi metti il padrino per consolazione? Buongiorno. Dario di Battipaglia. Ti chiederò di ricambiarmi il servizio. Ma fino a quel momento, consideralo un dono in occasione delle nozze di mia figlia. Sabato 2 settembre dalle 22 sale il sipario, inizia l'opera, Gigi D'Agostino. Sì, ho capito. Seychelles, Schio, Vicenza, queste piccole isole fuori dal mondo. Bogacci via questo. Gli farò un'offerta che non può Vorrei dedicare ginnastica mentale, Ginna, a mio fratello, perché deve studiare e senza la tua musica non riesce. Daniele 90 da Pontedera, da Pontedera. Con qualsiasi mezzo, auto, bici, a piedi o in motorino, segui questo cammino. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Siamo Giordano e Flora, da Santa Marinella. Vogliamo dedicare una canzone a Dario, detto Paperino, che è venuto a mancare domenica. Scegli tu la canzone, Gigi, e dedicala a lui, che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Gino da Cosenza, Gino. Mi faresti ascoltare Angel? Mi fa impazzire, la vorrei dedicare ad una mia amica molto speciale, Carla. Quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Peppe Vrai. Vorrei dedicare la canzone Lo sbaglio a Ivana Winca, Vinca 89. Ragazzi, ci sono dei nomi che... E no, perché poi io non riesco. E Peppe vuole dire Ivana, che Ivana gli piace. Dunque, sono Peppe Vrai, vorrei dedicare a Ivana e dirle che mi piace da impazzire. Adesso capito. Voglio dedicare Lo sbaglio alla mia piccola, dicendo ho sbagliato. Flavio. E bravo Flavio. Fammi ascoltare Lo sbaglio. La dedico al mio cognato Brizio, Gabriele da Monteroni di Lecce. Vorrei dedicare Lo sbaglio alla mia amica Claudia, Daniele di Genova. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. La vita che li programma, e se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa, qual è la soglia, per poter dire, andiamo a fintaglia. Chi lo sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Dedicare Toccando le nuvole ad Adele e ad Andrea per ringraziarli per quanti per ci sono. E vorrei dedicare Toccando le nuvole ad Adele e ad Andrea per ringraziarli per la bella giornata passata insieme. Ci sono riuscito. Ce l'ho fatta. Grazie per i momenti fantastici. Ah, qua non c'è la virgola. No, allora, grazie per i momenti fantastici che mi hai fatto passare in questi anni con le tue canzoni. Io non so veramente leggere. Grazie per i momenti fantastici che mi hai fatto passare in questi anni con le tue canzoni. Emozioni stupende che sento ogni volta che ti vengo a vedere. Grazie per le serate all'altro mondo. Vanessa, 85, da Brescia. È che tu, un messaggio così ovviamente mi imbarazza quel minimo e quindi mi sono un po' incespicato. Vanessa, ti abbraccio, ma se tutto questo succede è perché tutti insieme riusciamo a creare tutto questo, quindi ci dovremmo ringraziare un po' tutti a vicenda, perché questo mondo qui è così, è con voi, con la musica, con tutto questo è meraviglioso. Grazie. Suono. Ho scritto qualche